Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa di temi europei o che troviamo, di articoli che troviamo sui giornali europei e non solo a volte. Grazie come sempre a chi mi manda messaggi, specialmente usando magari l'account Twitter che è Giulia_Crivelli. Sono sempre graditi anche quando sono di critica, ma vediamo per esempio questa settimana, come potete immaginare, ci sono stati tantissimi commenti sul nuovo governo italiano, ma molti di questi sono stati già riportati. Quindi comincerei invece da un'analisi di Paul Mason, che è un giornalista britannico che collabora con il Guardian, ma anche come televisioni come Channel 4, e internazionale ha pubblicato un suo intervento dove prende anche spunto dalle recenti vicende italiane, dal voto soprattutto per il referendum, quello che ha decretato la crisi di governo e il voto del 4 dicembre naturalmente, e parte anche da lì, o comunque tiene anche questa in considerazione tutta l'evoluzione recente della politica italiana, con naturalmente la rapida ascesa del Movimento 5 Stelle, per parlarci di manuale di difesa contro i populismi autoritari. E scrive questo Paul Mason: sono cinici nei confronti dei diritti umani, non amano i migranti o l'Unione Europea, vogliono uno Stato forte e auspicano che la difesa, in generale, significhi attacco. Sono in pratica il nonno razzista che vi rovinerà il Natale, sono le persone che gli esperti hanno etichettato come populisti autoritari e secondo l'istituto di sondaggi YouGov sono in molti. Il 48% dei britannici presi in esame, ad esempio, mostra alcune o tutte queste caratteristiche. E come sappiamo continueremo a parlare da qui alla fine dell'anno e soprattutto nel 2017 della Brexit, perché ancora non sappiamo che forma esatta prenderà l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, e sappiamo che non andrà tutto liscio come si poteva pensare all'indomani del famoso referendum del 23 di giugno, perché per esempio il Parlamento britannico, la Corte Suprema britannica ha decretato che ci vuole, oltre al voto di quel referendum assodato per la Brexit, anche un voto in Parlamento, ma vedremo, perché è tutto molto incerto. Sulla questione comunque dell'antieuropeismo e naturalmente della Brexit, o addirittura di quella che era stata paventata come Grexit, e attenzione, perché le ultime notizie di questa settimana sono che Bruxelles ha bloccato la sospensione del debito alla Grecia, perché la Grecia, secondo i tecnocrati, chiamiamoli pure così, di Bruxelles, non ha rispettato alla lettera le indicazioni per mantenere la spesa pubblica sotto un certo livello, e quindi io temo personalmente che nelle prossime settimane torneremo a parlare della tensione dei rapporti tra la Grecia e l'Unione Europea. Ma prendendo come spunto prima la Grexit, poi la Brexit e poi tutti questi populismi a cui abbiamo accennato, e del resto avete sentito anche all'indomani del referendum europeo la Lega Nord tornare a chiedere un referendum per l'uscita dall'euro se non dall'Unione Europea. Su Vox Europe François Dupont, che è un giornalista francese, spiega che forse è veramente il momento di riformare tutte le istituzioni e anche il Parlamento europeo, che, come dico spesso, a volte anche attirandomi qualche critica dagli ascoltatori, è l'unico Parlamento al mondo che non legifera, nel senso che il Parlamento europeo produce delle leggi, ma non sono leggi che hanno poi gli effetti naturali che hanno in molti altri ordinamenti, perché chi veramente fa leggi che poi vengono applicate, hanno delle conseguenze pratiche, sono la Commissione europea e il Consiglio europeo. E allora scrive per esempio François Dupont, il Senato delle regioni d'Europa potrebbe essere una soluzione per restituire i poteri ai cittadini. Per rilanciare un'Unione Europea bloccata, sostituiamo le istituzioni che rappresentano gli Stati membri con un'assemblea più radicata sul territorio e complementare al Parlamento europeo. François Dupont, tra l'altro, è l'autore di un libro che si chiama La primavera degli europei, e naturalmente auspica, da sempre ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a fare in modo che l'Unione Europea abbia un futuro, ma perché abbia un futuro è perché torni a essere un pochino più amata dai cittadini europei, ha bisogno di riformarsi in tutte le sue istituzioni. Da qui questa proposta non tanto di abolire o sostituire il Parlamento europeo, ma di affiancargli appunto questo Senato, un po' come se il Parlamento avesse due camere, che è poi il bicameralismo, non quello perfetto che abbiamo noi e che pare continueremo ad avere, ma un bicameralismo un po' alla tedesca, dove c'è un ramo del Parlamento nazionale e un ramo del Parlamento che invece rappresenta i vari Länder, cioè gli stati, le regioni della Germania. Vi segnalo anche un'altra, e torniamo comunque sempre a parlare di partiti che hanno posizioni estreme, in generale populiste, vi segnalo molti articoli sui giornali austriaci sul voto che c'è stato, l'altro voto europeo che c'è stato il 4 dicembre, ricorderete, in Austria, dove si votava per la seconda volta per eleggere il presidente. Il presidente non è il capo del governo in Austria, quindi non è l'equivalente di, appunto, del premier, però ha comunque un ruolo di garanzia, proprio come lo ha il presidente dell'Italia. E sapete che ha vinto il candidato della sinistra, anche se non di moltissimo, ma il titolo di questa analisi su un giornale austriaco era: il candidato della sinistra ha vinto, ma quello di estrema destra non ha perso. L'ex leader dei Verdi, Alexander Van der Bellen, è stato eletto presidente il 4 dicembre in uno storico ballottaggio contro il candidato populista Norbert Hofer, che è di quel partito fondato da Jörg Haider, ricorderete che poi è morto in un incidente stradale, ma è stato tanti anni fa il primo esempio veramente di un partito di estrema destra in un paese come l'Austria, dove forse finora alcuni temi, specialmente di estrema destra e addirittura l'uscita allo scoperto di nostalgici del nazismo, erano quasi un tabù. Poi arrivò Jörg Haider e le cose cambiarono. Con la sua scomparsa il partito parve perdere molti consensi, adesso ha trovato questo nuovo leader, Norbert Hofer, che appunto è andato molto vicino a diventare il presidente dell'Austria, e secondo moltissimi osservatori non sarebbe stato un buon segnale per l'Unione Europea, perché naturalmente, tanto per cambiare, e come non dobbiamo sorprenderci di questo, è anti-europeista. Per tornare un po' alle cose italiane, vi ho detto ci sono stati tanti commenti e sul nuovo governo italiano, il governo Gentiloni, che mercoledì ha ottenuto la fiducia al Senato, il giorno prima l'aveva ottenuta alla Camera, giovedì nella persona del Premier Paolo Gentiloni si è già presentato ufficialmente a Bruxelles, quindi a rappresentare l'Italia per l'Unione Europea. E la Süddeutsche Zeitung è, devo dire, uno dei pochi giornali che ha sposato la linea che abbiamo letto anche qui in Italia, che il governo Gentiloni è un po' una fotocopia del governo Renzi, però ha anche detto che comunque potrebbe essere un buon governo per l'Italia, soprattutto per lo stile diverso che contraddistingue Gentiloni rispetto a Renzi, e che comunque è da tenere e da osservare con attenzione. Molto spazio sui quotidiani sia tedeschi che francesi per il piano di salvataggio, di cui avrete sicuramente letto anche sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, dell'amministratore legato di Unicredit Jean-Pierre Mustier, che ha presentato il suo piano di risanamento per Unicredit, che come sapete prevede tantissimi esuberi, circa 9.000 in tutta Europa, qualcosa meno di 4.000 solo in Italia. Alcuni di questi esuberi saranno anche in Est Europa e alcuni anche in Germania e in Austria. E tra l'altro la Handelsblatt, che è il quotidiano economico tedesco principale, sostiene che questo piano comunque avrà anche delle conseguenze sociali e politiche, proprio perché ci sono tutte queste migliaia di posti di lavoro che andranno perdute. Della questione si è occupata anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tra l'altro sapete che anche la Germania ha un grande malato, che è Deutsche Bank, per la quale tra l'altro un piano industriale non si è ancora visto, anche se anche per loro si parla di piano industriale e aumento di capitale. E la Frankfurter Allgemeine Zeitung scrive che i numeri di Unicredit danno la misura della crisi bancaria della seconda banca italiana, ma anche si riflette poi sul sistema bancario europeo. Molti commenti in Germania, ma non solo, anche sulla imminente sostituzione del presidente del Parlamento europeo, che è un tedesco, Martin Schulz, che però, forse come ricorderete, ha annunciato che si candiderà alle elezioni politiche che si terranno in Germania per diventare cancelliere. Lui è del centro-sinistra, quindi si candiderà sostanzialmente contro Angela Merkel, che si candida per il quarto mandato da cancelliera del centrodestra. Il suo partito è la CDU, i cristiano-democratici, e come successore di Martin Schulz è stato fatto il nome di Antonio Tajani, che è un ex parlamentare di Forza Italia. O meglio, quando era in Italia era un parlamentare di Forza Italia, poi è stato eletto al Parlamento europeo ed è alle elezioni europee ed è l'attuale vicepresidente. Secondo la Süddeutsche Zeitung, però, per esempio, Tajani sarebbe troppo legato proprio alla figura di Berlusconi, che in Europa, in particolare al Parlamento europeo, per fatti che sicuramente ricorderete, uno tra l'altro coinvolgeva proprio Martin Schulz, che era stato apostrofato come capo. Ecco, Berlusconi non ha lasciato esattamente un buon ricordo di sé al Parlamento europeo, così scrive la Süddeutsche Zeitung, e questo potrebbe costare a Tajani questa elezione, anche se la Süddeutsche Zeitung dice l'uomo è qualificato, negli anni ha fatto un buon lavoro, ha costruito una buona rete di contatti. Purtroppo era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.